1, 2, 3. Salve, sono il nano di scorta. Voglio uscire, non trovo la porta. Mentre là sotto preparan la torta, io intanto suono chitarra distorta. Sembra gioielli torta preparata. Dentro il vaso salsa tonnata, dentro il naso messo le dita, adesso torta più saporita. Questa visione di torta contorta, vive la vita, vita la vite, nel naso cerca ciò che lo conforta, ma tutto è fatto, spanata la vite. Torta, io intanto suono chitarra distorta.